questo è Radio 24 che trasmette la passione. Ogni Fox 24 come il calcio di un pallone. Siamo tutti convocati in quest'Italia. Scrivi Radio 24 sulla tua maglia. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Sono già beccato dello scialbo, dell'ignorante e del fastidioso in una botta sola da Matteo di Brescia prima, ma perché avevo fatto una domanda nel giornale radio, se volete anche un po' provocatoria, però ve la rifaccio e vi prego di essere sinceri, come io sono sincero con voi e non posso mentire o usare sempre il pennello dell'enfasi su queste cose qui. Allora vi chiedo, ma voi quanto ve ne importa delle Olimpiadi invernali di Sochi? Perché a me piace tutto lo sport, ma giuro, mi piace davvero tutto, non sono un calciofilo malato, qualunque sport al massimo livello, allora merita di essere visto, però vi confesso che io non riesco ad alzarmi in piedi e saltare sul divano per l'half pipe, per il biathlon, tra l'altro domani c'è 10 km, per il freestyle, per quello con gli spazzoloni sul ghiaccio, come si chiama, il curling, vabbè, guardo due minuti e poi cambio canale, in tutta onestà, potrei raccontarvi delle bugie, ma non ho voglia di farlo. Voglio sapere qual è la vostra opinione, ma che ve ne importa? Mi interessa, a me interessa tutto il contesto, mi interessa molto la location, questo neo-bizantinismo russo, mi interessano i problemi politici collaterali, mi interessa la storia dei cessi che ho trovato molto divertente, mi interessa Putin che fa il gradasso con il leopardo, mi interessano queste cose, ma lo skeleton proprio non mi ingrifa, vi dico la verità. 800 24 00 24. Ciò non toglie che ve le racconteremo queste Olimpiadi ampiamente, dettagliatamente, anche all'interno di tutti i convocati, e siete ovviamente tutti convocati anche sullo Skeleton, ci mancherebbe altro. Ve le racconteremo in tutti i loro aspetti, nei giornali radio, eccetera, eccetera, e quindi comincio con le presentazioni. Beh, Antonella Scott già la conoscete, la sentiremo più tardi. Tra l'altro, il GR delle 17 oggi particolarmente lungo, proprio con una pagina finale in cui tornerò a darvi fastidio per raccontarvi i prodromi della cerimonia inaugurale che inizia appunto alle 17 giovedì. Ve la racconteremo in diretta, in registrati, in tutti i modi. Altra presentazione che devo fare, Maria Pia Valls Beltran, che ci racconterà l'aspetto sportivo di questa Olimpiade. Ciao! Ciao Svidania ragazzi, ciao da Sochi. Ma a te piace lo skeleton? Ti piace l'half pipe? Allora, ti piace? Sentivo prima che dicevi che non ti ingrifa. A proposito, no, di ingrifa, fatti vedere Lolo Jones in versione tutina da Bob e poi mi dici se eventualmente i giochi invernali, sì, di Sochi, ecco, non possono attecchire anche al pubblico. Ascolta, più legato agli stereotipi calcistici magari come quello anche nostro. Questi sono gli aspetti collaterali che ho detto, mi interessano molto. Mi interessa, ad esempio, l'ho detto prima, la storia dei cessi olimpici mi ha molto divertito, l'ho raccontata l'altro giorno, mi interessano mille cose intorno a questi giochi. L'aspetto sportivo sì, mi interessa, però cosa vuoi che ti dica, non riesco, non mi batte nel cuore, ma perché mancano grandi personaggi. Guarda, tu vai al bar e chiedi, ma scusa, ma tu guardi le Olimpiadi invernali? Ah no, le guardavo quando c'era Tomba. Ecco, io ho l'impressione che il sentimento comune sia questo. Se poi vogliamo fare i fighi, diciamo ok, allora siamo tutti qui col tricolore e lo sventogliamo. Io non lo farò, poi non lo so, ognuno fa quello che vuole. Senti Maria Pia, cosa succede invece per quanto riguarda le gare? Perché sappiamo cerimonia inaugurale di... A proposito, com'è il clima prima di questa cerimonia? Allora, il clima per la cerimonia, tra l'altro, sono appena venuta via da un incontro con una persona di cui non posso rivelare il nome perché è molto addentro la parte architettonica, no, della cerimonia inaugurale, e un italiano, quindi sì, dico solo questo, poi non posso dire altro, e che mi ha dato qualche, insomma, delucidazione abbastanza precisa anche su quello che sarà lo spettacolo di stasera, che praticamente sarà una questione, una storia, una rivisitazione storica di quello che è la Russia come eravamo. nel senso che non c'è la parte moderna della Russia, che verrà probabilmente riservata per la cerimonia di chiusura. C'è molto molta attesa per il passaggio tra il Medioevo e l'avanguardia, perché si parla di strutture a livello scenografico veramente eccezionali, con costi anche importanti. Vi dico solo che per Torino noi avevamo speso 28 milioni di euro per la cerimonia di inaugurazione, qui sono stati spesi 400 milioni di euro, quindi sì, insomma, possiamo qualcosina, fare un po' di più. A proposito di bizantinismo, quel poco, quei 4 soldi in più, ecco, sì. Appena appena. Sì. Tornando invece per quanto riguarda sulle gare, innanzitutto parliamo con l'esordio di Deborah Scanzio, che si è tenuto ieri nella disciplina delle gobbe, per quanto riguarda lo snowboard. Ci sono diversi problemi di sicurezza per quanto riguarda la pista maschile di snow, perché avrete già sentito anche lì in Italia che insomma secondo gli atleti è un pochino troppo pericolosa, anche a detta di gente che comunque fa del fuori di testa il suo mantra, sì, di vita. Quindi insomma, se sono gli stessi snowboarder a lamentarsi per la pericolosità, sì, della pista, insomma, forse qualche problemino c'è. E questo volendo essere è arrivata tredicesima nelle qualificazioni di ieri, quindi non avrà l'accesso diretto alla finale, sì, ma si potrà rifare con il secondo turno di sabato. Per quanto riguarda la prima prova di discesa libera che si è tenuta stamattina, grande risultato per Bodhi Miller, mentre invece il nostro italiano Christoph Innenhofer è quello che ha avuto il miglior piazzamento, arrivando, sì, quinto. Ecco, Bodhi Miller è quello per cui io faccio il tifo. Di pattinaggio di figura, quest'anno è stata introdotta una nuova disciplina che è il pattinaggio di figura a squadre, una cosa un pochino particolare perché vengono raccolte le migliori squadre nella disciplina e si sta ancora cercando di capire come funzioni bene il meccanismo, no, di selezione e di quanti atleti competono per ogni nazione, perché non sono così precisi. Senti, come sta Armin Zöggler? L'hai visto? Allora, Zöggler non l'ho ancora incrociato, fortunatamente. Ovviamente sappiamo che è il nostro portabandiera. Sembra che comunque i suoi avversari siano in questo momento più avanti di lui, nel senso che ha già effettuato il quarto test, insomma, di prova, appunto, della gara, e insomma sembrano un pochino più avanti, in migliori condizioni tedeschi e gli svizzeri. Vediamo un pochino come va nei prossimi giorni. Lui dice che ha cambiato anche un po' il materiale per vedere di sistemare, però insomma, domenica c'è la gara della medaglia. Grazie Maria Pia, ci sentiamo più tardi, ovviamente vi aspetto. Copriti che farà freddo, mi raccomando, la voce, no, che ne abbiamo bisogno. Non fa freddo, ragazzi, qua c'è il sole, sono al mare. Dai, perché la cerimonia d'apertura è proprio sul Sea Cluster, quindi è un segretissimo, ma siamo tutti con gli occhiali da sole e si sta bene, sta proprio bene. E quindi si aggiunge anche l'invidia ai miei sentimenti. Grazie, ciao. Ciao, a presto, ciao. Grazie. 800 24 0024 è il numero verde. Alex su Twitter: preferisco fare la fila alla posta che vedere le Olimpiadi. Matteo su Twitter, par condicio naturalmente, ma bisogna solo parlare di calcio e gossip. Ringraziando Dio ci sono anche altri sport, certamente ci sono altri sport. Il problema è che gli altri sport magari si guardano in tele, volendo dal vivo, che è molto più divertente, ma argomenti di discussione, personaggi, dove stanno? 800 24 0024. Pardo arriva più tardi, anche oggi aveva da fare, comunque dopo le 2:30 dovrebbe essere collegato con noi. Strade. Tutti convocati. Allora, io sono tutt'altro che calciocentrico, anzi molto spesso mi annoia anche il calcio. Cosa ci volete fare? Ormai sto diventando vecchio. Mi divertono certi giocatori, mi divertono certi personaggi, mi diverte ad esempio, e più tardi ne parliamo anche con voi, 800 24 0024, chi passa dalle lacrime laziali al mantello nerazzurro come Hernanes. Avete sentito, letto quello che ha detto ieri con riferimenti alla storia recente? A me sono sembrate dichiarazioni, mi è sembrata una settimana velatamente da paraculo di Hernanes, posso dirlo questo? Esprimo sempre il mio pensiero. C'è Diamanti che va in Cina, altro aspetto che mi interessa, per 9 milioni al Bologna e per 4 a lui, più bonus per 3 anni. E mi sembra che entrambe le parti abbiano fatto un discreto affare. 31 anni Diamanti, ne prendeva 1,5 a Bologna, e secondo me benissimo ha fatto ad andare a giocare con Lippi a Guangzhou, perché nessuno è eterno ed è una scelta professionale totalmente rispettabile. cioè Klose in freezer per la Lazio, perché non lo fanno allenare, lo tengono ibernato e lo scongelano verso le 14.30 di domenica. C'è Gervinho che è la nuova superstar, insomma tutti questi sono i temi, ma mi interessa un sacco sapere qual è la vostra opinione, ma sincera, perché tanto insomma siamo tra amici e ognuno credo che abbia così il diritto di esprimere la sua, ma molto liberamente. 800 24 00 24, anche via sms, perché ne ho già ricevuti molti, 349 238 6666. Orientamenti che abbracciano l'intero arco delle opinioni, come quella di Marco Dalle Marche, che scrive: a me interessano quando c'è le Olimpiadi, naturalmente quando c'è la bandiera italiana, tifo anche per le bocce. Io non ce la faccio, Marco, però va benissimo, è perfetto così. Marco, altro Marco da Alessandria questa volta, proprio inutili, hai ragione, l'unica cosa bella è la Stefanenko. Aldo, molto più interessato alle Olimpiadi invernali che a tutto il noiosissimo calcio di cui parlate. Va bene. Gianluca da Molfetta: ragazzi, non ho empatia per le Olimpiadi invernali. Davide da Parma: oh, finalmente ti sei riabilitato, è rivolto a me, perché sì, sono in riabilitazione, rehab, come dicono gli americani. Domanda molto pertinente: queste Olimpiadi sono veramente tutto meno che sport, scrive Davide da Parma. No, non è vero, sono anche sport. Sono, anzi, certamente sport. E devo dire che, come ho sottolineato prima, a me l'aspetto non sportivo in queste Olimpiadi è quello che intriga di più, perché la location, l'ho detto, tutti i vari problemi che ci sono intorno a queste Olimpiadi, problemi o discussioni o storie che sono intorno a queste Olimpiadi, a me interessano. Quanto al resto, ragazzi, non vedo grandi personaggi, non vedo neanche grandissime superstar come è successo in passate edizioni, cioè di quelli che guardi perché sono un evento, perché... Linza Yvonne che scende in discesa libera, sinceramente io me la guardo, ma perché Linza Yvonne? Guardo le grandi star internazionali dello sci alpino, poi sul resto io sì, lo guardo professionalmente, ma non riesco ad essere così eccitato, perdonatemi, sono un cuore di pietra. Emanuele Milano, buongiorno. Buongiorno. Dica. Mi dispiace per l'ennesima volta, sì, notare come troppi sinistri soloni oramai siano diventati padroni delle radio. Sì. Per quale motivo lei si deve permettere di dire che la cosa non la entusiasma? Ma perché la mia opinione? Io mi permetto di dire quello che voglio. Posso? Cioè, io permetto a lei, a casa mia, che è questa, di dire quello che vuole, e io esprimo la mia opinione. Esatto. Se non posso esprimere un'opinione, allora non l'esprime nessuno. E allora. Allora facciamo le veline, come in Unione Sovietica. Dica. Mia. Attenzione, però io esprimo la mia. Perfetto, la dica. La mia è quella di pensare una cosa sola. Come mai esistono ancora trasmissioni di calcio e di ciclismo? Uh-huh. Come mai esistono ancora persone che possono parlare di animali che quando questa nazione era civile stavano nell'arena e adesso stanno sugli spalti? O di un ciclismo che non è drogato, che lo sanno anche i sassi che è drogato. Ma ragazzi, lasciate perdere che una bella partita di curling è molto più interessante di una partita fatta da buffoni. No, allora, buffoni, calcio e ciclismo ormai. Va bene, questa è la sua opinione. Io non dico che il curling non sia interessante. A me non piace, posso dire che non mi piace, non mi frega niente del curling, posso dire. Però non mi permetto di dire che quelli che giocano a curling sono dei buffoni, perché non è così, né quelli che lo guardano. Quindi anche questo, mettere tutti insieme, anche questo dire ok, ciclisti, tutti drogati, quelli che vanno allo stadio, tutti animali, questo lo trovo un pelino eccessivo, un pelino sopra le righe. Posso dire che del carne non mi importa niente? La verità, volete che dica che me ne importa? Volete che dica che sto sveglio di notte per vedere le repliche? Non è così. Se posso esprimere l'opinione io, potete farlo anche voi, ma com'è giusto che sia. Tani, provincia di Ancona, buongiorno. Buongiorno. Mi dica. Io sinceramente sono dell'idea che sono quei sport minori che viene seguiti un po' poco, a mio avviso, per cui tante volte che penso di telefonarvi. Anche perché personalmente c'ho mio figlio che fa il pattinaggio, no? Uh-huh. E in queste Olimpiadi in particolar modo ti farò la loro brivida tre volte campione mondiale. Sinceramente stavo davanti alla TV. Certo. Lei sinceramente partiva dal pattinaggio a rotelle. Sì. Per cui fa piacere sempre sentire anche di questi sport. Certamente, ma veramente... fa piacere sentirne, vederne, eccetera, eccetera. Quello che mi limito a dire è che, insomma, il senso comune delle persone per queste Olimpiadi mi sembra che sia un po' depresso, cioè non vedo in giro grande interesse, ma non lo vedo in giro non perché questi sport non abbiano dignità, ce l'hanno e come esattamente come tutti gli altri. Lo dico perché mi sembra che manchino, ripeto, le grandi storie, i grandi personaggi, anche un interesse che sia vero, che sia reale. Poi l'hockey mi diverte, alcuni sport di più, altri meno, il bob lo trovo abbastanza spettacolare, quindi sì, si può guardare, però da lì a prendere in mano tutti la bandiera, insomma, io non mi accodo a questo corteo. Questa è il mio feeling, la mia sensazione. Italo, provincia di Trento, buongiorno. Buongiorno, sono Italo dalla provincia di Trento. Volevo farle notare una cosa. Dica. Che per ogni ragazzo che fa dello sport, che fa dell'agonismo, le Olimpiadi è un traguardo sportivo eccezionale. Uh-huh. E pertanto, di fronte al fatto di poter andare alle Olimpiadi di qualsiasi sport, deve fare riflettere qualsiasi persona come lei, che è un giornalista, è uno sportivo, anche di cambiare idea e cambiare opinione su quello che è l'importanza e la bellezza di un'Olimpiade, che è poi la massima espressione dell'etica sportiva, dovrebbe essere mondiale. Ma non sto dicendo questo. Giusto? Sì, ma non sto dicendo questo. Le Olimpiadi invernali, e qui mi riferisco al suo discorso, sì, tenga presente che in Italia ci sono 2.700.000-3 milioni di praticanti che fanno poi circolare dal punto di vista dell'economia moltissime denare, e ci sono degli appassionati di livello fantastico, Italo, hanno portato... Aspetti un attimo, i praticanti, quelli che vanno a sciare è perché si divertono a fare sci. Giusto? Ci sono anche quelli che fanno le gare, che fanno le competizioni, sì, che mirano ad arrivare alle Olimpiadi. Lei pensi soltanto al personaggio di Zeno Colò, penso anche al personaggio a Tomba. Che ha portato il benissimo nostro amico, diciamo, Tomba, sì, per lo sci italiano. Esatto. E di fronte a questo, no, che è uno sportivo, cambi per cortesia idea. Non so che cosa dirle. Io mi entusiasmo di fronte a grandi campioni, a grandi eventi, a grandi prestazioni sportive. Certamente io a queste Olimpiadi non vedo grandi personaggi, non vedo neanche grandi campioni. Lei mi parla di Tony, di Tomba, ma certo li guardavo anch'io e mi emozionavo lì. In questo caso, in questo particolare momento storico, non vedo nemmeno nelle discipline più note, lo sci alpino su tutti, neanche grandissimi campioni, non vedo neanche grandissime storie da raccontare, quindi non... mi sembra un'Olimpiade in tono minore, della quale sinceramente a me importa poco. Poi è solo una mia opinione personale. Non sono d'accordo con Dennis Daverone, che dice: non devi dire che te ne importa o no, ti basta solo commentare. No, questo è un conto. Io posso dire se mi interessano o no, e anche questo è un commento. Poi commenteremo le imprese sportive. Mi devo fermare per la borsa? Finita? Ah, va bene, è in corso anche la Final 8 di Coppa Italia di basket, ne parliamo dopo. Siena è in vantaggio a 7 minuti dalla fine. Borsa, poi torniamo. Tutti convocati. Se Plushenko non vale l'Olimpiade, le conviene farsi un esame di coscienza serio. Va bene, me lo farò. Prometto di farmi un esame di coscienza. Sara scrive: Olimpiadi Sochi senza alcun appeal, manca tutto, peccato. Poi tra insulti vari vediamo se ne trovo uno leggibile. No, mi sembra di no. No, mi spiace. Massimo da Torino, buongiorno. Buongiorno, grazie di essere stato convocato. Grazie. Ma volevo praticamente dire la mia sul fatto delle Olimpiadi. Sono convinto che, secondo me, se lei riesce a vedere qualcosa di Plushenko, magari si riesce a appassionare a una disciplina che si vede raramente, se non con la Costner, sì, sì, in Italia. E quello forse è l'unico, lo guardo, l'unica persona che dà forse un po' di emozione. È un grande personaggio, Massimo, è un grande personaggio, è un grande atleta, non è un tipo di sport che mi fa impazzire. Cioè, non tutti i grandi campioni li guardo al limite per curiosità, però se le devo dire che mi vengono i brividi, no, non ci riesco, ma questo è un gusto personale, perché mi rendo conto del fatto che Plushenko sia uno dei pochi veri personaggi, delle poche vere superstar di questa Olimpiade. Come tipo di sport io non riesco ad appassionarmi più di tanto, quindi ma non so che farci, vi sto dicendo soltanto la verità, soltanto vi sto aprendo il mio cuore, se volete. Pierluigi Pardo, ci sei? Sì, ci sono, come va? Benissimo, tu guardi le Olimpiadi Invernali? Ma poco, sinceramente. Ti interessa? No, le Olimpiadi sono una roba serissima che merita, sì, certo, veramente di essere trattata e celebrata nel modo più romantico e lirico. Devo dire che poi gli sport in assoluto, cioè dirti che mi posso appassionare così tanto al bobo, allo zettino, faccio un po' più fatica, sinceramente, con tutto il rispetto, però insomma le Olimpiadi sono lo sport, quindi ma sicuramente questi giorni faremo la sorpacciata, e anche se non siamo degli esperti tecnicamente di tutte le discipline, penso che sarà bellissimo proprio per lo spirito olimpico e questa cosa astratta che in realtà è proprio l'essenza dello sport, l'essenza della musica. Invece Alex Britti, come vedi il derby, Alex? Pronto? Eccomi, come ecco. Vedo il derby? Sì. Il derby lo vedo bene, come l'ho sempre visto, come una bella festa, dai. Una bella festa, un buon agonismo. Chi vince, mi chiedono. Spero vinca la Roma, ovviamente, io sono romanista. Senti, ma cosa ne pensi dell'idea che ho sentito in giro della Lazio di far fare a Mauri il giro del campo prima della partita con la Coppa Italia? Facessero quello che gli pare. Tu dici. Se sono contenti così, va bene, figurati. Beh, non mi sembra una grandissima idea quella di fare questo. Comunque, spero che non venga fatto. Ma diciamo, basta che non sia una provocazione. Se lo fanno perché sono contenti di averla vinto, averla vinta li capisco pure. Sì. Poi, però, se è una provocazione, no, perché poi insomma allo stadio avrebbe un risultato, fuori lo stadio magari potrebbe bravo, avere esattamente, risultati. Esattamente, non... esattamente. Dai, hai ragione. Però, insomma, deve essere una festa del derby. Io lo vedevo sempre in famiglia. Mio nonno era della Lazio. E quindi c'era sempre, insomma, si vede insieme, si sta insieme. Ora non diciamo che siamo cugini, per carità, no, non ci sono parentele, però, no, insomma, va visto in un modo molto più sportivo di quello che è stato negli ultimi anni. Mi vengono in mente quei bellissimi cappellini a Milano, rossoneri, nerazzurri, a Roma saranno diversi. Io non ho cugini, c'è scritto sopra. È certo. Ma sicuramente lo vedrò con qualche amico laziale, figure. A laziale? È sempre un pretesto per poi andarci a fare una bella mangiata dopo. Beh, e chi perde paga, dai. Mi sembra una grande idea. Grazie Alex. Va bene. Grazie. Ciao. Ciao. Pierluigi. Qua nei corridoi si incontrano personaggi. Com'è andata oggi a Verissimo? Ma domani Verissimo, domani. Domani, che non lo so, domani te lo dirò, domani pomeriggio. Ma di che ti fanno parlare? Ma penso che parlerò di Balotelli, sì. Ah, di Balotelli. Come va? Parliamo di calcio oppure di altri sport? Allora, no, io voglio parlare un po' di calcio, poi vai. Parlo di altri sport dove ramazzerò la dose quotidiana, il pane quotidiano di rimproveri. Vabbè, ma me li prendo, non c'è problema. No, mi interessano invece le storie di Diamanti in Cina. Diamanti sì. In Cina è ufficiale, 9 milioni al Bologna, 4 milioni l'anno a lui più bonus per 3 anni, ne guadagnava 1,5 a Bologna. Secondo me fa benissimo, secondo me è un'ottima scelta professionale per uno che ha 31 anni. Il Bologna ovviamente perde molto sul campo, ma prendere comunque in questo momento, per il momento del Bologna, 9 milioni per un giocatore di 31 anni, è capitano, bandiera, simbolo, uomo che può garantire la salvezza, eccetera, eccetera. Non può garantire ovviamente la salvezza da solo, quindi tutto è in gioco. Secondo me è un buon affare per tutti. No, per me non è un buon affare per il Bologna per un motivo semplicissimo, perché il mercato è chiuso, quindi nemmeno una parte di questi soldi possono essere spesi per rinforzare la squadra ora. E poi Diamanti è un giocatore per il Bologna praticamente insostituibile. non lo so, a me sembra una resa, lo dico sinceramente. Io capisco l'interesse del giocatore, credo che al di là delle ipocrisie si debba comprendere che siamo di fronte all'ultimo contratto importante della sua carriera, anche alla possibilità di fare un'esperienza di vita di un certo tipo. Fra l'altro insomma, sappiamo che la compagna di Diamanti ha un'origine asiatica, e insomma, quindi posso immaginare che quella sia una famiglia, anche conoscendoli un po', che ha una predisposizione, un'apertura nei confronti del mondo e di certe esperienze internazionali. Quindi io il fatto che il calciatore abbia accettato la proposta lo capisco perfettamente. C'è un'offerta economica ovviamente importantissima, che non è un dettaglio, e che i cinesi lo prendano mi sta anche bene, che il Bologna potesse trovarsi in difficoltà a trattenerlo anche, però per me rimane il problema tecnico enorme, sì, la società che in questo momento sta faticando dal punto di vista del mercato tantissimo, dal punto di vista della classifica pure, e che si trova senza il proprio miglior giocatore, con quasi un girone da giocare, una classifica che è drammatica. Io penso che sia molto molto difficile oggi che il Bologna possa salvarsi, ce la può fare, però certamente le probabilità con questa cessione diminuiscono parecchio. Sì, diminuiscono parecchio, non dimentichiamo anche che il Bologna... Scusami, visto che poi insomma è un'epoca, diciamo, non soltanto poetica ma molto pratica, e a quel punto i 9 milioni che tu prendi per una cessione di questo tipo rischi di perderli sotto forma di diritti televisivi, di campagne abbonamenti, di tutto il resto. Beh, ma questo avviene, è variabile eventuale, cioè arriverà in futuro. Adesso è chiaro che quest'anno, secondo me, la vera perdita del Bologna avrà minusvalenza sul campo. Anche se nessuno mi toglie dall'idea che quelle parole di Diamanti prima di Natale, dopo la vittoria a difesa di Pioli, te la ricordi, no? Sì. Ma la mia sensazione è che lì dentro qualcosa si sia rotto, qualcosa sia successo. Abbiamo quelle parole di Diamanti? Quelle chiacchiere a eccetera eccetera, sì. Noi risposte bisogna darle in campo. Si parla tanto in questa città ultimamente, si parla tanto in tutti. Bisogna cominciare più a vedere l'obiettivo tutti insieme, vedrai che facciamo meglio tutti. Cioè è il momento di parlare, è il momento di pedalare, ora è il momento di pedalare. Perché chiacchiere ne facciamo tante e a cazzo. Beh, insomma, mi sembrava già una dichiarazione di intenti. Sì, anche se qualcosa si sia rotto, che l'ambiente fosse caldo, questo era abbastanza evidente, ce ne eravamo accorti. Pioli, lo sappiamo, ha avuto fino all'ultimo una buona parte dell'ambiente con lui, anche dal punto di vista della tifoseria. Anche la storia veramente penosa che riguarda la contestazione a Morandi, che è una cosa che offende tutte le persone per bene, secondo me, no? Perché insomma, alla fine Morandi non ha fatto altro che difendere un atteggiamento diverso nei confronti di Napoli, e anche nel difendere romanticamente quel momento, quella canzone e quella persona che era un suo amico e che sappiamo bene è una persona importante della cultura italiana, della cultura popolare, ed è un pezzo della storia del Bologna. Sì. E l'idea che insomma adesso gli facciano gli striscioni contro fa un po' ridere, no? A me fa abbastanza, a me non fa ridere, non mi fa ridere neanche un po', mi intristisce. Quindi, anche questa storia, cosa qui, che chiaramente non è ovviamente che c'entri nulla con la crisi tecnica della squadra, perché Morandi è solo il presidente onorario, ma è un altro campanello allarme, un altro indice del clima, perché in una società è un indicatore di come sta l'ambiente, no? Dove tutto funziona, dove sei tranquillo, dove sono tutti contenti, è molto più difficile che una caduta di stile così grande si possa avere. Ma d'altra parte, che il clima sia difficile, anche l'altro giorno c'è stato il consiglio d'amministrazione in un ambiente che non era certo quello di una società che è unita, insomma, che ha unità di intenti sul campo, fuori dal campo, che è in salute, eccetera. Senti Piera, altre parole che queste sì mi hanno abbastanza divertito, quelle di Hernanes. L'Inter è stata il club in Italia che non ha mai retrocesso in Serie B. L'altra cosa sarebbe che anche l'Inter non ha mai stato tra gli scandali che hanno avuto qualche anno fa. Io, Salvatore da Milano, tifosissimo nerazzurro, che ha mandato orora un messaggio e che non capisce perché l'ufficio stampa dell'Inter abbia beccato così male Hernanes su questioni che non riguardavano la presentazione. Questo è ciò che scrive Salvatore. Non so se è stato imbeccato, non credo proprio sia stato imbeccato. Io posso dire una cosa. Aspetta, me la dici dopo, sì, dopo il traffico che è in linea. Vai. È il nostro appuntamento cult, no? Sul traffico. Io dico solo che Hernanes a me sembra un pelino paraculo. L'ho detto prima e lo confermo. Strade. Tutti convocati. La storia dei diamanti ci stanno anche pensieri maliziosi come quelli di un ascoltatore che scrive: ma non pensate che Guaraldi abbia aspettato apposta a vendere diamanti, così incassa 9 miliardi e non spende un euro? Questo non so se c'è questo tipo di ragionamento. L'hanno pensato in tanti, questa cosa. Senti, ma su Hernanes che mi dici? No, io ti dico che... Dalle lacrime al mantello nerazzurro. Ma insomma, io penso che il tifoso dell'Inter, le due cose che ha detto Hernanes le sente e le ripete come uno slogan e come una cosa a cui crede, ed è dal suo punto di vista un motivo d'orgoglio, così come un punto di vista d'orgoglio per i tifosi della Juve dire 30 o 31 sul campo. Quindi è un tema che appassiona ed è un tema divisivo. Chiaramente ha detto la cosa più popolare di tutto, certo, no? Questo non ci sono dubbi. Che poi l'abbia beccato qualcuno, non lo so. Io non credo, sinceramente. Sta in Italia da tanti anni, la storia la conosce, e probabilmente ha detto queste parole perché voleva regalare un sorriso ai tifosi dell'Inter. Cioè, non bisogna guardare, tanto non è che gli cambia lo stipendio o che i tifosi dell'Inter non l'avrebbero accolto con entusiasmo se non avesse usato questa frase. Sì, si può pensare che sia un po' paraculo per la ricerca dell'applauso facile, sì, però voglio dire è anche eventualmente nel mondo di oggi è anche eventualmente una cosa che potrebbe anche ritorsersi contro, perché magari fra tre anni, adesso i cambi fra Inter e Juve sono difficili, ma che tra tre anni non l'ho visto mai. Vabbè, no, ecco, non si butta nulla, quindi comunque lui ha preso questa dichiarazione, una dichiarazione che rimarrà agli atti e che testimonia un punto di vista molto chiaro, sì, e molto preciso. Insomma, ma sai, questa... però non ci vedo l'imbeccata dell'ufficio stampa dell'Inter. No, questa, comunque, questa strategia della chiamata alle armi, che per l'Inter è la storia di Calciopoli, per la Juventus è quella dei 31 scudetti. Insomma, io ho notato nel corso degli anni che nei momenti di difficoltà la chiamata alle armi ogni tanto esce. Per esempio, Agnelli adesso non parla più di se non casi sporadici, giacartone eccetera eccetera, però ha mollato un po' l'argomento. Quando la Juventus andava male, ogni tanto partiva la chiamata alle armi del pueblo su questi argomenti, che sono quelli che cementano i tifosi di questa o di quella fazione. Sì, o spostano magari l'attenzione dai problemi veri. Tecnico, naturale, no? naturale, esattamente così. Allora, al volo Siena batte Roma 76-67, primo risultato della Final League di Coppa Italia a Milano. Valerio da Bologna. Pronto? Dica. Buongiorno, no, volevo intervenire riguardo alla questione diamanti. Sì. La stavamo aspettando. Io vi ascolto tutti i giorni, non sono mai intervenuto, ma in questo momento veramente sono amareggiato come tutti i tifosi bolognesi per quello che è successo. Per noi che Diamanti andasse via da Bologna lo sapevamo già da un pezzo. Cioè, perché? Nel senso che... perché? Ma perché? Perché quando Guaraldi ha preso il giocatore brasiliano, quello che è stato abbandonato all'aeroporto, che non sono andato a prendere quello. Sì, che è una storiaccia anche quello, che non si capisce bene. Cioè, sapevamo già che Diamanti se ne sarebbe andato da Bologna, e sappiamo già perfettamente che il Bologna quest'anno retrocederà, perché se una società gloriosa come il Bologna si permette all'inizio dell'anno di vendere Gilardino, Gabbiadini, Taider, eccetera eccetera, alla fine dell'anno non può sperare in nient'altro che la retrocessione. Sì, la squadra è stata indebolita non poco. Sì. Perché secondo voi no? Cioè, no, lui, sto dicendo no. Sì, ma certamente è stato indebolito e non poco. Amara condivisibile analisi del tifoso, e secondo me c'è tutta la disperazione, la prova grossa, insomma, l'amarezza perché siamo di fronte a un club importante, a una città importante, centrale nella storia di questo paese, che insomma in Serie A ci dovrebbe stare serenamente, no? Se contassero i bacini di utenza e contassero ma anche la forza economica, comunque è una città che dovrebbe avere un normale campionato di Serie A senza particolari problemi. In questo momento diciamo l'orizzonte sportivo non corrisponde alla dimensione, alla forza della città. No, senti, sul derby, poi andiamo a Brescia da Silvestro, sul derby, prima parlavo con Alex Britti, che è stato bravissimo, sì, a intercettare, però questa storia effettivamente che è uscita, secondo cui vorrebbero far fare a Mauri il giro di campo con la Coppa Italia prima del derby, a me sembra una pessima idea. Ma insomma, diciamo che potrebbe essere considerata una provocazione. Non potrebbe essere considerata, dai, Pierlo, è una provocazione, una miccia dal punto di vista dell'ordine pubblico. Ma io credo che insomma la gioia, l'ostentazione con le coreografie, quello che è successo il 20 maggio dell'anno scorso è qualcosa di storico, perché, sì, perché insomma non so se succederà o quando succederà, forse fra 30 anni o fra 40 anni che la Roma potrà avere una rivincita di questo tipo. Poi la Roma si sta consolidando alla grandissima, facendo un campionato eccezionale e alzando il livello delle proprie aspirazioni. Però è chiaro che una soddisfazione così enorme, così diretta, così da scontro diretto in partita secca, sarà molto difficile che ci possa essere in futuro. E quindi è giusto che la Chiari la festeggi nel migliore dei modi. Sì. Insomma, sicuramente sarebbe una provocazione e credo che insomma sia molto più sano. No, ma poi soprattutto una provocazione a livello di curva. A livello verbale, di... naturalmente, se arriva dal campo, se arriva dai giocatori, se arriva dal club, secondo me è un po' tanto. Si potrebbe, no, ma poi, diceva poi prima... è anche vedi, è fatto benissimo a dire questa cosa, perché sancirebbe anche, cioè, dal punto di vista dei tifosi ci sta che al minuto 71, ma ci mancherebbe, ma ci mancherebbe, fa parte della bellezza del derby da una parte e dall'altra. Dal punto di vista della società forse sarebbe un segno alla fine un po' di debolezza, nel senso che comunque quello che in questo momento i tifosi della Lazio stanno imputando, una parte dei tifosi della Lazio sta imputando proprio alla società, è un grande orizzonte, insomma. Benissimo, 26 maggio, una gioia clamorosa, ma poi il tifoso della Lazio, la vita va avanti, vorrebbe non vedere i giocatori ceduti, vorrebbe pensare che ci saranno altre finali, altre coppe, altre partite importanti, per cui finché lo celebrano i tifosi, quel giorno lo faranno sempre ed è bellissimo e fa parte, sì, dell'essenza del calcio. È sacrosanto. Che la società in un momento come questo avalli questa cosa significa che è proiettata al passato e non al futuro. Sì, ma poi soprattutto che va a toccare dei nervi scoperti che è meglio lasciare lì, cioè davvero io la intenderei, la vivrei come una provocazione anche un po' troppo forte. Sì, anche senti, se poi ti posso dire una cosa, Roma, sì, è una città che conosco molto bene, che da, sì, sempre flerta e ama il cazzeggio, l'ironia. Va bene, però i problemi rimane sempre... di ordine pubblico che purtroppo a Roma ci sono stati gli ultimi derby, sono problemi di frange e non, cioè, io l'equazione che se c'è, che più tu aumenti l'aspetto colorato del tifo e più aumenti la violenza, io a questo non ci credo, perché se c'è una città abituata a convivere con gli striscioni, il controstriscione, uh-huh, lo spionaggio, questa è Roma da una parte e dall'altra, una città sicuro, dove l'ironia però, sono al calcio, però il campo è un altro piano, cioè che la provocazione possa arrivare dal campo, secondo me è meglio evitarlo, ecco, tutto, sì, qui, sì, ma è una mia idea. Secondo me è meglio evitarlo soprattutto nell'interesse della società Lazio, perché sancirebbe un essere da parte della società, una cosa del genere, ancorati a quella Coppa ancora Italia. Ancora legati a quella lì, capito? Ancora legati, sì, a quella, sì, Coppa Italia, certo. La vita va avanti. Silvestro, Silvestro, mi dica. Silvestro? Silvestro da Brescia, no, è andato via, aveva da fare. Un'ultima cosa invece per te, Pier, che è questa... Benitez ha parlato oggi, sai che c'è stata, ieri l'ho detto, sì, no? di questa voce, 10 milioni di dollari pronti per lui, per la nazionale del Qatar. Benitez. Oggi ho letto in un giornale che è una offerta del Qatar, no? Qualcuno mi ha detto 10 milioni di euro netti, ho la valigia qua preparata. ho perso io. Valigia pronta, eh? Beh, anche lui farebbe solo bene, farebbe solo quello che deve fare un professionista. Se l'ha giocata alla grande, dai. Mediaticamente se l'ha giocata alla grande con una grande battuta, ha fatto, sì, un dribbling, ha fatto veramente un gran dribbling. Fuori classe. Sì, insomma, sì, dai, mi sembra che sia in linea col personaggio. L'offerta non lo so se c'è, insomma, la fonte è una fonte autorevole, ma vediamo. Io penso che sia infinitamente più stimolante allenare il Napoli. Ma certo, dal punto, ma non, da su questo, non ma no, da, ma dal punto di vista professionale, inteso come, come possibilità di stare in un certo tipo di calcio, un certo tipo di sport, su un certo tipo di palcoscenico, non c'è dubbio. In Qatar ti vai sportivamente a seppellire sotto una montagna di dollari. Grazie, Pier. Ciao. Abbraccione, ciao Pierluigi Pardo. Ci fermiamo per il GR, poi torno con voi. 800 24 00 24, numero verde. Convocati. Roma, Adelaide, buongiorno. Buongiorno. Senta, signor Genta, scusi, però lei prima ha detto della provocazione dei laziali se facessero girare la Coppa Italia prima del derby, ma che non ha potuto mai volare l'aquila per paura che i romanisti gli diranno qualcosa. Mm-hmm. Io sono d'accordo con lei, le provocazioni dovrebbero non esserci, però i laziali si sentono sempre frustrati perché sono sempre più i romanisti che vengono riscattati da tutti, no, dalla ma signora, stampa signora, e da tutto. No, ma signora, non guardi, no, ma guardi, siano peggio degli altri. No, perché, ma per carità, non sto, non sto facendo. Allora, avrei, no, mi scusi, signora, io avrei detto la stessa cosa a parte invertite, cioè quella Coppa Italia l'avesse vinta la Roma e avesse fatto fare a Totti il giro di campo il giorno del derby con la Coppa Italia in mano. Avrei detto la stessa cosa, vale anche a parte invertite. Secondo me sarebbe una provocazione eccessiva. Sarebbe una provocazione eccessiva, ovviamente non per la maggioranza, che mi auguro siano, anzi sono certo siano persone con il cervello, ma per quelli che di cervello ne hanno un po' di meno, e può essere un'ulteriore scintilla, un ulteriore cerino acceso in fianco alla benzina. Quindi secondo me sarebbe meglio evitare. Mi limito soltanto a dire questo, senza farne una valutazione di parte giallorossa o biancazzurra, insomma, semplicemente secondo me sarebbe una cosa da evitare, visto quello che il derby di Roma spesso provoca. Non, ripeto, non ne faccio un giudizio di valore, un giudizio di parte. Allora, chi c'è Lorenzo su Twitter che mi vuole come futura stella della nazionale di curling? Non credo proprio, Lorenzo. Allora, io ho trovato un buon motivo invece per seguire lo skeleton alle Olimpiadi. L'unico buon motivo che ho trovato è Jerry De Rosa che me lo racconta. Ciao Carlo, ce ne sono molti altri, buoni motivi. Senti, io non so cosa dire. Lo skeleton non è in cima. No, no, guarda, perché sto scoprendo questi sport. Sì, ma è bello scoprire. E devo dire che hanno molto fascino. Sono molto più tecnici di quello che può sembrare, sono molto meno da pazzi di quello che può sembrare. Seguirò slittino, skeleton e bob, tutto quello che mi slittino, vista. Skeleton e bob. Quindi, sì, sì. Beh, slittino, sì, e bob, slittino e bob mi piacciono già di più, posso dire. ma lo skeleton è strano perché c'è di mezzo anche l'atletica, c'è la partenza più spettacolare, insomma sono 50 metri di corsa in cui bisogna correre sul ghiaccio per dare la spia. Insomma, consiglio a tutti di seguirlo, perché poi le Olimpiadi verranno sono un modo per scoprire sport, sì. Forse ancora più che le Olimpiadi estive, no? Per scoprire sport. No, secondo me no, cioè non sono d'accordo, perché le Olimpiadi estive non mi perdo un secondo, Olimpiadi invernali sinceramente lo scheletro non guardo perché ci sei tu, un'altra cosa perché mi intriga un minimo, ma francamente non sono così appassionato. E poi questa Olimpiade di cui non ci perderemo neanche un istante con te e i tuoi colleghi lì a Sky, è un'Olimpiade un po' strana, eh? Grandi personaggi tu dove li vedi? Ma è come sempre l'Olimpiade, poi la riserva di inattesi. Indubbiamente noi abbiamo Zoeger, che secondo me arrivare a 40 anni a questi livelli non sarà favorito in questa gara, ma comunque in questi sport in cui la dedizione, la disciplina, l'allenamento quotidiano e anche un po' la lotta, no, con i problemi economici sono l'ordine del giorno, mantenersi per oltre 20 anni a questo livello, diciamo che per l'Italia mi sembra che il portabandiera sia più che adeguato. Sì, sì, sì, per il resto, non c'è dubbio. Per il resto mi aspetto qualcosa di emozionante, l'Olimpico da Bodemiller. Quello è un atleta per cui io faccio il tifo, tu lo sai, perché comunque è un personaggio che a me piace. Mi sembra vagamente bollito, lo so, ma tutto quello che ha passato però secondo me una zampatina la darà, magari non da podio, però insomma è lì per insomma, quello che vale l'ho già fatto vedere tante volte, non credo che sia lì solo per fare la passerella, ecco. Una zampatina potrà darla, poi come sempre nelle Olimpiadi conta la neve, la giornata, l'umidità, eccetera. Sì, contano un sacco di fattori, come non c'è dubbio, materiali, abbiamo sentito prima di Zoeller che non è contentissimo, i materiali che ha usato fin qui, eccetera, eccetera. A Coppa Italia di basket chi se la piglia invece? Siena batte Roma 7-6, 6-7 è il primo risultato di questa orgia di pallacanestro appena iniziata, che finirà verso le 10:30 di stasera con la partita dell'Olimpia. Si gioca in continuazione, secondo me anche un pochino troppo, anche se so che su Sky il Basket Day ogni tanto spunta. Sì, sì, spuntava. Spuntava. sì, devo dire che su partite secche sui quarti di finale, sinceramente a me non piace questa formula, perché se fosse stata la possibilità di farlo di domenica, allora la gente ci può andare, la gente in TV lo può guardare. Sinceramente Siena Roma, che è una partita molto interessante all'una, per non parlare di Brindisi, viene a fare 3:30 quando comincia. Avrei preferito giovedì, sì, anche a me un po' sprecato, avrei preferito un grande classico, due partite il giovedì 18:30, 20:30, due il venerdì, e poi come sempre è stato, due semifinali, finali. Ma chi sarà alza? Milano? Io direi che se non la vince Milano, non dovesse vincere la Milano, sarei molto sorpreso. Eppure non è che viene il braccino corto, perché è già successo. Sì, sì, è già successo, ma obiettivamente questa è la Milano più forte degli ultimi 15 anni. Su questo non c'è ombra di dubbio, una squadra che in un mese ha cambiato completamente faccia. L'arrivo di Hackett è stato fondamentale. Quello che ha cambiato tutto, Jerry. Ha cambiato tutto e oltretutto è arrivato il miglior giocatore italiano, e che non succede sempre a dicembre, certo. Realtà. Ma non solo, è arrivato proprio nel ruolo in cui Milano aveva un buco preoccupante, e l'arrivo di Hackett, oltre ad alzare il tasso tecnico e il tasso di energia della squadra, ha dato una spintina a tutti gli altri ruoli, sistemandoli a cascata, ognuno al posto giusto. È stato il reagente che ha fatto funzionare la reazione chimica. E infatti nell'ultima partita con Hackett malato i problemi sono tornati fuori, perché comunque è una squadra questa di solisti, che la presenza di Hackett per la sua classe, ma proprio anche per il ruolo che occupa, ha magicamente reso un gruppo. No, ma guarda, oltre la forza di Hackett, che è fortissimo, è servita a Milano oltre la forza di Hackett, perché è stato davvero il giocatore che, senza il quale le cose non funzionavano, perché i due playmaker che c'era prima, ad esempio anche lo stesso Gerrals, liberato dalla regia, può fare il guastatore, e in quello è bravissimo. In regia non mi ha mai convinto. L'altro che c'era prima con lui, di cui non mi ricordo neanche il nome, di cui mi sfugge il nome, Ains, non mi sembrava un giocatore di questo livello, men che meno di livello di Eurolega. È chiaro che Hackett è quello che gli ha messo a posto tutto quanto, e poi un playmaker a Milano, forse l'ultimo, guarda, è stato Nando Gentile, forse l'ultimo, sì, di alto così a memoria. Direi proprio di sì. Poi c'è stata una lunga ricerca. Abbiamo visto Booker, però ormai era nella fase, il suo secondo passaggio, che qualcosa di grande ha fatto vedere, ma molto a sprazzi, perché era in fase calante. Quando è arrivato il primo giro Booker, la squadra non era di livello, diciamo, che potesse competere ad altissime quote. Però veramente un playmaker così non lo si vedeva dai tempi di Nando. Un'ultima cosa, Gentile papà, certo. Un'ultima cosa, tu hai raccontato in Eurolega quel canestro di Planinic, che io ogni tanto mi sveglio di notte e me lo ricordo. Ma tu hai mai visto un canestro segnato da così lontano? Beh, a chiudere i quarti, cioè senza la vittoria. Ma da 23 metri? Sì. Alcuni sì, fra l'altro uno proprio, vado agli Europei del 2001, proprio su quel campo lì, di Vasco Eftimov, che i più appassionati ricorderanno la fortitudine in una partita della Francia. Però detto questo, l'unico decisivo che mi viene in mente, ci ho messo qualche giorno a farmelo venire in mente, è stato nel 2-3 anni fa, finale di Lega Adriatica col Partizan, con in campo proprio Gerrels, che vince con un canestro di Ketchman identico con di Planini, ci vince la Coppa proprio la finale. Però ci ho messo 3-4 giorni a farmelo venire in mente, altri non mi ricordo. No, io personalmente da così lontano non ne ho mai visti. Quei due che hai citato tu me li sono persi, li guarderò poi su YouTube, non me li ricordo, però io da così lontano ho memoria. Ma da metà campo, magari anche da prima della metà campo, due passi. Sì, no, poi ho ricordo di Gentile più o meno da quella posizione, Nando sempre a Trieste per andare a supplementare, ma era il classico, diciamo, terzo tempo, e poi che è molto difficile anche quello, ma non è certo quello di Planinic, che aveva le spalle al canestro in cui doveva segnare. Quello di Ketchman è stato talmente sorprendente, se vuoi andare su YouTube vedrai solo il replay, perché la regia era già lì che riprendeva il festeggiamento degli altri. Esatto. Grazie Gerry, ci sentiamo per le Olimpiadi, grazie, ciao, un abbraccio. Va bene. Ciao a tutti, grazie Gerry De Rosa. Enzo da Modena, poi vado a sintonizzarmi su Sky, dica. Salve, grazie per la convocazione. Niente, sai com'è, a noi altri juventini la cosa poi dà anche piuttosto fastidio, anche perché ne abbiamo piene, come si dice, hai capito bene, giusto per me. Allora, un giocatore pagato un fior di milioni, che per acquistarsi la simpatia dei tifosi se ne esce con una buttata del genere, una cretinata, perché è una cretinata. perché deve ricordare che lui è andato in una società fino a prova contraria, riconosciuta colpevole per illecito sportivo, ma non si è potuto procedere per avvenuta prescrizione. Ernanes ha detto una cretinata proprio perché ha provocato e ha suscitato di nuovo discussioni di questo tipo su... Ma lei non sa quanti messaggi mi sono arrivati oggi. Allora questo è Recoba con i passaporti e quell'altro sono storie di cui non verremo mai a capo. Dunque, sono storie che se lasciamo lì chiuse nell'armadio, evitando di tirarle fuori per ragioni di cassetta, forse è meglio. Mi limito a dire questo e vi saluto. Luca, ma io dicevo, non perderemo un istante parlando con Jerry De Rosa, non ne perderemo un istante non per Jerry De Rosa, ma perché? Perché ho detto così, insomma, secondo lei posso perdere un istante della gara di Skeleton? Ci mancherebbe altro. Franco Piantini, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia, ci sentiamo lunedì. Mettere pressione su questa telefonata, lei Leoriali, no. Buongiorno, non volevamo metterti pressione. Ciao. Ma lo sa anche lui. Quando firmi, sto scherzando. Mazzarri è vero, ha avuto dei trascorsi, però insomma esperienze a livello di grandi squadre, con tutto rispetto per il Napoli, non le ha ancora avute e di conseguenza questo anche per lui era un inizio di percorso. È capitato purtroppo in un momento che magari anche lui non pensava, poi quando firmò, e non certo si immaginava probabilmente che a metà stagione ci fosse stato il cambio di proprietà. Matteo Gandini è ancora a New York City. Ciao Matteo. Ciao Carlo, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio anche agli amici a casa. È verissimo, è anche vero però che Peyton Manning viene considerato non propriamente un vincente nella NFL, perché sì, rispetto ad altri suoi colleghi, lui ha vinto soltanto un Super Bowl, ne ha persi due, e nel Super Bowl ma anche in altre partite importanti di playoff non ha assolutamente brillato come ieri. È chiaro che nel football poi quando vince il quarterback è l'eroe, il merito è tutto suo, quando perde la colpa è tutta sua, e non è propriamente così. Eccolo qui Boris Sollazzo. Ciao ragazzi. Ciao Raffaele Auriemma, come stai? Bene, lui? Il Napoli di Maradona ha perso a Firenze malissimo 3-1 e a Verona malissimo 3-0. L'importante è come riprendersi, non come cadere. Sono d'accordo, però ricordati anche le reazioni che ci furono dopo quelle due sconfitte di cui parli. Napoli anche questa. Se tu giochi male e perdi con l'Atalanta 3-0, sono tutti incavolati. Ma trovo che sia anche corretto. Dori! Pardo, è un coro che ti piace oppure volgare, violento? No, non è violento, su ragazzi. Ma se questo è violento, allora veramente, cioè, mi imponiamo il silenzio ai tifosi. Concludo ricordandovi che la nostra trasmissione va in onda alla stessa ora ogni settimana, lo stesso giorno, la stessa ora, la stessa rete. Bello, eh?